Potrà una dura vita di rock and roll spezzare le gambe al DJ Ariel? Potrà un programma radiofonico di nicchia, in diretta dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9 del mattino, da una radio locale, diciamocela la verità, da una radio locale, sconfiggere la concorrenza dei giganti? Davide batterà Golia. Roberto Fricantoni arriverà negli studi di Milano. Rock FM. Questo venerdì 30 di novembre. 30 di novembre. Spadino mi porterà una tazza, altro che una tazza, una ventina di caffè, nel vano tentativo di affrontare questa giornata. A questa e ad altre domande troveremo forse risposta in questa puntata 141. Si chiama Pane, Burro e Rock and Roll la trasmissione. Oggi non ce la farò a parlare, sono dislessico già normale, immaginati così. Burro e rock and roll. Sarà dura, ma l'affronteremo assieme. La tua colazione rock. Perché siamo in squadra con voi. Pane, burro e rock and roll. Giornata di sciopero, non potevamo mollarvi lì tra il lusco e il brusco. Noi ci siamo. Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata. No, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato. Ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Eccoci qui fino alle 9. Questo è il tentativo, insomma, da contratto siamo qui fino alle 9. Vediamo se gli affamo oppure no. Voi là fuori come state messi? Fatecelo sapere. Intravedo già un paio di messaggi a inizio trasmissione. Ricorderò tra pochissimo le coordinate. Fammi buttare un occhio alla scaletta. Beh, roba interessante in questa puntata 141. Ci divertiremo anche quest'oggi. Restate con noi. Yeah! Down, Ramones, ehi, 7-5. Aiuto, aiuto. Va bene, vi ricordo un numero di sms: 335-100-7777. Qui c'è l'Ariela che vi augura il buongiorno. Sarà una puntata difficile, ma ripeto, non potevamo mancare. Anche perché settimana prossima Pane, Burro e Rock and Roll prenderà una breve pausa. Ci siamo sparati 63 puntate in diretta e devo confessarvi che il nostro fisico non le regge. 63 puntate di fila di Pane, Burro e Rock and Roll. All'ascolto lo so, vi capisco, penserete, ma che sta di sto qua? Stanno lì 2 ore a fare i scemi, che è anche vero. Purtroppo ci sono dei lavori nel dietro le quinte che sono un filo estenuanti. Aggiungendo a questo una vita di rock and roll così normale, quotidiana, vi garantisco che 63 puntate iniziano a sentirsi, soprattutto nel mio cervello. Quindi settimana prossima 4 appuntamenti di crema e poi il tuffo in questo dicembre, che sarà strano, sarà particolare e per il quale abbiamo preparato parecchie sorprese. Magari qualcosa svelo anche in questa puntata di venerdì. Vi ho detto il numero di sms, vi dico anche la mail se vi va: ariel@radiorockfm.com. Niente male questo messaggio arrivato fresco fresco qualche secondo fa. Facessero sciopero anche gli scemi, Pane, Burro e Rock and Roll finirebbe di esistere. Firmato il primo scioperante. Ehi, sì, buonanotte Spadino. Io mi appoggio qui un attimo sul mixer, ok? Metto la testa qui sopra i cursori, ma 2 minuti, così. Now that I've lost everything to you, you say you wanna start something new. Oh, baby, baby, it's a wild world, and I always remember you like a child girl. Dai che è andata, caro Freak, un piccolo sforzo, ci vediamo anche per questo venerdì e poi si chiude baracche burattini e si fa il weekend. Fine settimana di vacanza, viva il venerdì 30 novembre. Attacchiamo con un almanacco del giorno che fu, le va? Naturalmente no. No, mi mancava. 1735, secondo una leggenda devozionale, Sant'Alfonso Maria de Liguori, mentre predicava a Foggia, viene avvolto da un fascio di luce e lievita da terra. Che roba impressionante. Ma non direi, insomma. Come no? Ma capita. Ha lievitato in un fascio di... Come capita? In un fascio di luce. Io, per esempio, modestamente lievito quelle due orette e mezza al giorno. Lei medita un paio d'ore, no, non lievita. Lievita. Sì. Lei lievita come la farina. E poi le faccio notare che era Alfonso Maria de Liguori. Sì, quindi? I Liguori forse hanno condizionato un po' la visione mistica del pubblico. Ma passiamo. Ma passiamo al 1872. Che bravi, sembriamo Paola e Chiara quando parliamo insieme. Prego. La leggo io allora. La prima partita internazionale di calcio si svolge in Scozia, fra Scozia e Inghilterra. Perché non c'era l'Italia, altrimenti avrebbero visto. 1974, in Etiopia, Tom Gray e Donald Johanson scoprono i resti fossili della celebrissima Lucy, un Australopithecus afarensis straordinariamente ben conservato. Ricordo perfettamente Lucy, sì, io ho potuto conoscerla personalmente. Ma Lucy era un reperto archeologico. Ma di Lucy, no, ma lei si sta confondendo. Girava sempre un po' piegata. Sporcaccione. Chiudiamo, la prego, usciamo da questo cul-de-sac. 1979. Vede che anche lei usa il turpiloquio, Poi dice di me, venga sul cerchietto. Sì, i Pink Floyd pubblicano la loro opera rock, si chiamava The Wall, il muro. Ah, che roba, abbattendo un pezzo del muro di Berlino anche loro, metaforicamente. Molto bella questa chiusa. Grazie. La teniamo? Teniamola, la teniamola così. La rifacciamo? No, teniamola. La teniamo. Uai! Per pane, burro e rock and roll. Con pane, burro e marmellata inizia la giornata. Un saluto ad Ago, che non sentirà mai, però. Se ci aggiungi rock and roll, batterista dei Lombroso, diventa una figa. Presenziava anche lui ieri sera in questo party che abbiamo, a quale abbiamo partecipato. Ho avuto il piacere di chiudere un brano alla batteria con lui. Tra l'altro devo controllare la chitarra se l'ho spaccata o no. Che contro i piatti, se la pigli di taglio, ti si infila dentro il piatto, maledetto. Benvenuti, 7:17. Vi va un giretto nello spazio? A me sì. Sì. Parto, ragazzi, via. Parto con David Bowie. Space Oddity. Lente l'MLM, si alzano le luci. Ah no, non erano le luci fuori di Milano, erano le luci dello studio, scusa, pensavo fosse già giorno. Space Oddity, David Bowie. Ma guarda che io sono messo male, è sempre il solito tormentone, noi qua siamo messi male, ma anche voi. Ho detto vi va di partire con Bowie, uno commenta: occhio a partire con Bowie, stai attento. Sei scemo, perché piacerebbe un sacco andare in giro con David Bowie, così fare un viaggetto. Saluti ad Andrea, il primo a scrivere quest'oggi. Tino, presente ieri sera a questa presentazione del del videogioco Guitar Hero 3, è stata una bella serata. Grazie Tino per i complimenti. Davide è messo male come me. Bene, siamo squadra insieme. Saluti a Fungo, sto leggendo random un po' di sms. Sembra che la tua serata per festeggiare Guitar Hero sia finita un quarto d'ora fa, confermi? Sì, no, non un quarto d'ora fa, poco di più. Un saluto al gruppo d'ascolto Orafi Argentieri, finalmente venerdì, tutto bene, non ho fatto il botto. Ah, questo è quello che ieri sentivo a puzza di gas. Buona, ci eravamo preoccupati, Caro Ariele Damatti, ieri sera concerto di Subsonica a Firenze e oggi nel camion in rotta per Milano. Stasera faccio il DJ a Lucca, Focus, bella lì. Saluti a Monica. Come la puntata 121 e la 131, anche la 141 è una puntata palindroma. Cerca di riposarti, Ariele. Fatti di zabaione. Monica, come fai a sapere che impazzisco per lo zabaione? Tra l'altro, posso lanciare un appello disperato? È poco in tema perché siamo al 30 di novembre. Ma gelaterie italiane, perché avete scassato lo zabaione? Cosa vi aveva fatto di male lo zabaione? Non c'è più, non si trova più. Ci sono un sacco di gusti, ma non c'è mai lo zabaione. Perché? L'ultimo saluto ad Andrea, in realtà col quale avevo iniziato, che mi chiede: ma hai smesso prima di suonare ieri sera per la diretta di Pane, Burro e Rock and Roll? No, sono stato là fino alla fine. Dici perché ho suonato? Io ho suonato con la Rock FM Star Band all'inizio. Dopo non mi volevano. Non so perché. Forse perché spacco le chitarre e si arrabbiano. Dovrei smettere. Pastorius, McCartney, Jack Bruce. Beh, loro sono veri maestri del basso. Amici, fidatevi di noi, non diventerete mai come loro. O meglio, non lo diventerete mai se continuerete ad ostinarvi a voler suonare il basso con le dita. 1, 2, 3, 4. Pane, burro e rock and roll vi dà l'occasione di diventare bassisti rock con la bocca. Iscriviti al provino gratuito inviando un sms al 335-100-7777 con la scritta rock con la bocca. Sì! Non perdere l'occasione di riscrivere la storia del rock con la bocca. A Pane, burro e rock and roll sono le 7:31 minuti primi. L'astronave è già decollata da un tot e punta dritta alle 9 del mattino. Vi aspettiamo al 335-100-7777. La squadra di Pane, burro e rock and roll con l'Ariele Spadino, Freak Antonio e la nostra redazione. Ciao Yuri. Dopo devi venire oggi in diretta, Dobbiamo chiamare un po' tutti. Sta settimana in molti dei nostri redazionisti non sono andati in onda, quindi li devo riprendere tutti oggi. Credo che il tuo cervello non abbia nulla da perdere se continuate con le dirette. Dai, uno come te che finora è uscito indenne da Freak. Coraggio Passerotti, continuate così. Ciao, ciao Itanka. Ciao Marco. Cazzo, Marco c'ha un'idea figa, Ciao Ariele, fatti una mezz'ora di pennichella e fai condurre a Spadino, che quello non fa mai niente. Lazzarone della Marona. Hai ragione Spadino, vieni di qua. Spadino, vieni qua a salutare. Vieni qua a salutare! Non farlo scemo, vieni a salutare il tuo pubblico. Dai, no, non vado avanti, vieni qua. Non mandare il pezzo, vieni qua a salutare. Maledetto. Pane, burro, rock and roll oggi fantascientifica. Si torna di nuovo nello spazio. Questa volta ci accompagnano i Pink Floyd. Ladies and gentlemen, Pink Floyd. E l'Ariele ha lo strumento questo. Ok. che lo faceva un po' più psichedelico, no? Allora abbiamo qualche problema da risolvere. Carlo, ciao. Ciao, ciao Mario. Carlo, ciao. Della tabaccheria. Sì. Ma ovviamente i numeri del lotto di ieri non sono usciti. No, per un pelo, è sempre su Firenze, porca bene. Però, per il numero. Ma c'è sotto qualcuno che fischietta? Sì, sì, c'è sotto la Carla qui che è tutta contenta, sta ballando sul sottofondo musicale vostro. Fischietta lei veramente? Sì, sì, sì, la fischietta veramente. Ricordiamo per chi non sapesse. Aspetta, prima di passarmi, oh, è contenta che ha vinto i numeri, ma guarda te. Abbiamo due problemi da risolvere però. Prima Carla vuol sapere perché ci nascondiamo in una piscina in orario di chiusura. Esatto, sì, voleva sapere, tu, è curioso di sapere cosa abbiamo fatto in piscina. Però non possiamo, dopo provo a spiegarglielo. E seconda cosa, cioè Carla ha vinto e noi no, vuol dire che Carla gioca degli altri numeri. Sì, sì, lei questa qui c'ha tutte le sue taroccaggini varie. Passami Carla al volo, scusa, questa cosa non passa lì. Ciao. Ma guarda un po' te. Pronto? Buongiorno, sciura Carla, come va? Buongiorno. È allegra oggi, eh? Eh sì, hai capito? Per un punto i nostri non li abbiamo preso l'ambo, però... Ma cos'è questa storia che lei gioca numeri tutti suoi? Eh beh sì, io ho dei miei numeri. Ma non ce li dà, noi se li tiene per lei. Ma come faccio a darvi anche quelli? Già facciamo fatica a giocare quelli che diamo il martedì e giovedì. Sarebbero troppi, eh? Sono troppi, andiamo avanti con i nostri. È un piacere sentirla allegra, signora Carla. Eh sì, quando prendo sono allegra. Lo sa che quando l'altro giorno ha accennato alla cassola, i radioascoltatori sono impazziti, volevano la ricetta. Ma che così, non sono capaci di fare la cassola. No, com'è? È capace sì di fare la cassola, signora Carla. No, io, quelli lì. Ah no, gli altri no. Ah. C'è gente che non ha mai neanche sentito parlare della cassola all'ascolto. Perché gli interdetti. Poveri loro, mannaggia. Devo avvisarla di una cosa importante, signora Carla. Settimana prossima non siamo in diretta. Ah no, ho sentito che non siete in diretta. Quindi, sì, volevo avvisarla, mica che poi martedì non sente i numeri e mi si incazza come fa lei. No, ce ne abbiamo. Andiamo avanti a giocare quelli di ieri. Tra l'altro andranno in onda dei pezzi vecchi, ci sta che si risente anche lei. Perché può capitare. Sì, sì. Va bene? Va bene. Volevo avvisarla. Quella cosa... Cosa avete fatto in piscina voi due? In teoria non posso dirglielo, però... No, ho sentito ieri mattina. No, ma allora lo dico. Ti ha detto che non si può. No, solo per lei lo dico. Era una foto per un calendario, però dovevamo fare una foto sott'acqua. E allora... Mi dovevi mettere sott'acqua Carlo. No, con la sua testa. No, Carlo sta fuori, fa l'istruttore. Lo so. L'ho visto che sgrida i ragazzi a bordo piscina. Non è un po' malnat. Malnat. È un po' malnat. O un'altra. Va bene. Va bene. Ci sentiamo presto, signora Carla, che abbiamo un po' di idee. Va bene. Perché c'era Roberto Fricantoni, il mio collega, che era interessato a imparare i dialetti di tutta Italia. Lei, secondo me, sul milanese potrebbe essere messa bene. No, io non sono sul milanese, mi dispiace. Lei su cos'è? Sono a Bergamasco. Bergamasco. Ci mancava il Bergamasco. Tipo Barlafuse. Esatto. Ci pensiamo, signora Carla, e poi le faremo sapere. Va bene. Buona giornata, buon weekend. Anche voi. Non si preoccupi se non sente i numeri, eh? No, tanto. Andiamo avanti a giocare. Abbiamo quelli della cassola. E abbiamo quelli di ieri. E allora? La torta gli inifera, però non li gioco più. La torta non viene. Vabbè. No, viene sempre fuori uno. Buon weekend, Carla, grazie. Grazie anche a voi. E me che c'è? Li paghiamo, sì, poco, anzi pochissimo, ma un po'. Pocherrimo, ma un po' li paghiamo. La nostra redazione, capitanata dallo stagista Isaac Rizzi, lavora giorno e notte, notte e giorno, per alcune delle rubriche di Pane, Burro e Rock and Roll. Una di queste è appunto le Anse in Ansia. Lo strano ma vero, io mi tufferei al volo alla notizia rock di quest'oggi. Sì, recuperiamo ciò che altre redazioni butterebbero nella spazzatura. Si tenga forte perché il titolo è di rompere. gente? Voglio saperlo immediatamente. Infila due vacche in un'auto e tenta la fuga. Arrestato un ladro. Straordinario. Mi descriva l'episodio. Le forze dell'ordine sudafricane hanno arrestato un uomo con l'accusa di tentato furto di bestiame. Nulla di strano, diranno in molti, se non fosse che il furfante è stato beccato in flagranza di reato mentre tentava di stipare all'interno di una vecchissima Fiat Uno, colpo di scena la Fiat Uno anche in Australia, due vacche e due capre. Stando a quanto raccontato dal capitano di polizia Jabulami Mledzke all'agenzia stampa Sapa, alcuni locali avrebbero notato l'individuo e dato l'allarme. Una pattuglia giunta nella zona a Felindaba, nel KwaZulu Natal, hanno individuato l'uomo che subito ha tentato la fuga. Il suo mezzo, ormai carico, aveva già a bordo gli animali, non era più in grado di seminare la volante. Fermato il mezzo, l'uomo ha tentato inutilmente di scappare a piedi, ora dovrà rispondere di tentato furto di bestiame. Complimentoni! Sa come si chiama in linguaggio giuridico il furto di bestiame? Sa che dovrei saperlo, mi dica l'iniziale che me lo ricordo. Abiur è un'altra cosa. Abigeato. Grazie, colpo grazie. Di scena. L'ho sudato freddo. La possiamo accettare, sì. Notaio? Insomma, vedo il notaio saperlo, perpluto, perplesso. Una laurea in giurisprudenza buttata nel cesso come le ansie in no, ansia, no, assolutamente. Sì, colpo di scena, possiamo accettarla. Grazie. Mi perdoni, volevo far notare una cosa. Sì. Così per onore di patria. Sì. Nella Fiat Uno, due vacche e due capre comunque ci entrano. Infatti, infatti è sempre una macchina di tutto rispetto. Comunque a lei è andata bene, il notaio ha accettato la sua risposta. Grazie notaio. Andata malissimo invece al ladro di bestiame, al quale consigliamo la prossima volta di scegliersi un'auto più capace, magari sempre Fiat, ma più larga. Il tracu l'ho preso girato sbagliato, eh. Ciao dall'Ariele, questa è Pane, Burro e Rock'n'Roll, la nostra colazione. Quest'oggi messi peggio del solito, ragazzi. Siamo alla puntata 141, ma è la 63esima in difilato, eh. È un po' pesantino per noi, quindi ci prenderemo una breve pausa settimana prossima. Più che altro pausa che useremo per più di un paio di ideuzze che sfodereremo per questo dicembre, che speriamo vi terranno compagnia, così all'insegna di Pane, Burro e Rock'n'Roll, all'insegna della stupidità. Leggo un messaggio, questo non è bello. Io propongo una scissione dalla Rock FM Star Band per fondare la Fucina di Cazzate, questo dovrebbe essere il nome della band, ma per favore dai, con membri di Pane, Burro e Rock'n'Roll interni ed esterni. E facciamo del punk demenziale. Potrebbe essere un'idea. Questo lo leggo dopo, quando se riusciamo a beccare il nostro inviato. Se suono l'air guitar e contemporaneamente suono anche con la bocca, faccio il playback di me stesso? Sì. Allora, caro il mio regista Spadino, qui c'è Fly che dice: vogliamo sentire Spadino, Spadino, Spadino. Parla Spadino, dagli la possibilità. Nelle altre radio i registri parlano quando vogliono. Dico di ciao, buon venerdì. No, è timido Spadino, è timido, un ragazzo è timido. Non ho ancora capito perché, ma è timido. 335-100-7777. Abbiamo trovato un amico per il dialetto ligure. Fichissimo, fichissimo. Ci serve qualcuno per il dialetto toscano e anche un milanese a sto punto, perché Carla fa solo il bergamasco. Carino, eh? Sarà, deve essere una buona idea quella di approfondire i dialetti. Radio Euro 45, pane Euro 70, Euro 0,70, marmellata Euro 1,40. Ascoltare pane, burro e rock and roll mangiando pane, burro e marmellata non ha prezzo. Grazie Mary. pane, burro e rock and roll diventa miele. Spegni il microfono, Spadino, se no la canto tutta. E poi svengo. Anche i capelloni hanno un cuore, ricordatevelo. Anche i capelloni che si truccano hanno un cuore, sì. I'm on my way, I'm on my way. C'è un amico che mi sgrida via SMS perché prima ho parlato del nostro mitico radioascoltatore Yuri, l'ascoltatore di Ravenna, il camionista di Ravenna, che ci aiuta per quanto riguarda la rubrica del softcore, del soft porno alla radio, donne nude. Mi fa notare che credo di aver detto: mi raccomando Yuri, oggi devi venire. Intendevo devi venire in radio. Yuri, io e te ci eravamo capiti, cioè era, sì, sì, era un praticamente. Praticamente era un doppio senso così. Ciao Yuri! Buongiorno, ciao Arie. In giro per l'Italia con il suo camion, ma sempre attento a pane, burro e rock and roll e alla possibilità di ascoltare, di alzare gli ascolti facendo vedere le donne nude. Oggi sto messo male, Yuri, guarda. Anch'io non è che sto messo tanto bene. Cos'hai combinato? Sto perdendo sempre di più la mia credibilità di padre. Quello un filo può essere. Perché venerdì scorso mi ha sentito mia figlia, si è arrivata a casa e mi ha detto: sì, ma che cavolate stavi dicendo ieri stamattina per radio? E te, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Yuri, se vuoi per dicembre svoltiamo la rubrica, No, non so, perché guarda, io per dicembre ho trovato anche già un Babbo Natale. Avevi già trovato... Donna, ovviamente. È logico, è poco vestita, proprio poco vestita. Vediamo, se vuoi possiamo fare... Noi saremmo interessati anche a una rubrica, cioè papà-figlia. Cioè l'educazione che, non so, qualcosa tipo il dottor Spock per scrivere un libro così sulla crescita dei figli. Ah, bisogna che sente con le bambine perché sono molto timide. Dai. Ma quanti anni hanno le bambine? Una 9, la grande, e la piccola 5. Grande. Però ascoltano il tragitto casa-scuola, fanno il burro rock and roll, okay. Quello è fisso. Tra l'altro ci dovresti trovare anche... ah no, però il dialetto di quelle parti lì, Frick lo conosci. Frickin' no. No, è diverso, è un po' diverso, hai... romagnolo con l'emiliano. Allora magari troviamo anche un romagnolo, vabbè. Senti, andiamo, ma no, se, allora non andiamo con le donne nude oggi, dai, va vai. Bene. Così, solo per aiutarti nella stima delle nei confronti delle tue figlie. Ma io non ho mica dei problemi, quest'anno mi sentono mica. Anche l'altra volta si è arrivati proprio in diretta. E allora spariamocela una donna nuda, dai, vai. Cosa allora, avevi sotto mano? Location al bordo della piscina. Ah, fantastico. Piscina povera o piscina ricca? Ma non si, cioè, povera, cioè piccolina, si... con i solettini bianchi. Ma è tipo, la, è tipo la piscina comunale o è una villa? No, è la piscina, quelle da villaggio turistico, anche se non ci sono mai andato, io l'ho visto solo per le foto. Bionda o mora? Bionda, buona. Non si vede in viso perché non si vede. No, fammi spiegare. C'è un cappellino di paglia fucsia, calato leggermente, gli copre gli occhi, sì. E il naso si vede giusto la bocca e il mento, diciamo. Quindi non si vede la totalità del viso. Io sarò messo male, ma ricordo che nell'ultimo intervento ci avevi promesso un seno finto. Bocce finte! Una quarta abbondante che sta su anche senza forti gravità. Cioè, proprio dei collati lì si vede lontano un chilometro. Senti, vado random, intanto sono messo male. Mi è venuta un'idea per l'estate. Se ci arriviamo fino all'estate. Io me ne fino al mese di quest'anno, visto che a Bologna ci voglio arrivare. Ok. No, dicevo, se ci arriviamo con pane, burro e rock and roll, non succede qualcosa. Certo, scherzerai. Come facciamo la mattina? Mica che ci cacciano prima. Secondo me dobbiamo fare una. Cioè, tipo, tu fai il testatore di seni veri o finti. Andiamo sulle spiagge. A guardare, però, perché sennò mia moglie mi dà delle scopole nella cova. Già le figlie da qua a là, secondo me, te le tolgono di affidamento. E lì lì perdiamo anche la moglie. Perché io sono in casa, sono uno contro tre donne. Sì, mannaggia. Va bene, Yuri, allora siamo alla quarta abbondante, vai, chiudiamola che siamo in ritardo. Chiudiamola con una gonnellina di. plastica fucsia anche quella, lucida. Sì. Con tutta una cerniera davanti, che lei si sta abbassando la cerniera e si vede uscire fuori. Ok, fermo. Fermo. Guarda che Yuri, tu sei un cazzo di numero uno. Ci sentiamo prossimamente. Va bene, ma ricordi che il Babbo Natale è peggio di questo, eh. Ciao. Ciao, ciao.